Magazine 24, la rassegna dei settimanali. Domenica 28 agosto, bentrovati da Marco Bellinazzo a Magazine 24, l'appuntamento con periodici e settimanali che trovate in edicola questa settimana. C'è un appuntamento, un anniversario importante, i 20 anni dalla morte, dall'uccisione di Libero Grassi, l'imprenditore anti-racket, il primo che ha portato alla luce in maniera evidente e plateale il problema di tante piccole e grandi imprese del Sud Italia e non solo, che ribellandosi al pizzo ha pagato poi con la morte la sua voglia di libertà, di non assecondare le richieste dei boss. Dell'anniversario di Libero Grassi si occupa sia Famiglia Cristiana che 7, il settimanale del Corriere della Sera. Partirei proprio dall'articolo di Felice Cavallaro che scrive: resteranno nella storia dell'antimafia le due dita di Davide Grassi tese in segno di vittoria mentre porta a spalla la bara del padre Libero. Sono passati esattamente 20 anni da quel maledetto 29 agosto, quando alle 7:30 del mattino a Palermo in via Alfieri gli sgherri del clan Madonia spararono a un imprenditore indifeso, sandali, jeans e camiciola, diretto alla sua auto per andare in fabbrica. Ma loro stanno in cella e Libero Grassi in qualche modo ha davvero vinto. Inutile farsi troppe illusioni davanti a una città spesso ancora ingessata da orrori e malamministrazione. Scrive ancora Felice Cavallaro, che ha poi sentito la vedova di Libero Grassi, Pina Maesano, donna minuta e fortissima, dolce e inflessibile, che ha raccolto in qualche modo la testimonianza del marito. Sarà per il ruolo sempre più attivo di questi siculi indignato se per la svolta legalitaria guidata in Confindustria dal nuovo vertice di Ivan Lobello, ma 20 anni dopo, continua e conclude Felice Cavallaro, Palermo e la Sicilia, nonostante la sequela di attentati e minacce, sembrano comunque migliori rispetto alle sabbie mobili in cui affondavano ai tempi di Libero Grassi. Mentre l'articolo di Pietro Scaglione su Famiglia Cristiana è dedicato appunto ai ricordi della vedova di Libero Grassi, Pina Maesano, e in particolare le chiede in questa intervista se nei mesi precedenti all'omicidio, in cui appunto Libero Grassi scrisse una lettera prima al Giornale di Sicilia e poi al Corriere della Sera, poi fu invitato in una memorabile puntata della trasmissione Samarcanda di Michele Santoro, abbia temuto per sé o per la sua famiglia, per la sua vita. E Pina Maesano risponde: noi eravamo convinti che una vendetta sarebbe stata possibile, ma pensavamo che le ritorsioni avrebbero colpito soltanto l'azienda, mai le persone. In generale, infatti, l'omicidio eccellente rappresenta l'estrema razio, un atto profondamente stupido, in quanto crea un'ondata di indignazione popolare e di rabbia che alla fine travolge e danneggia i clan mafiosi. Ancora, Pietro Scaglione chiede: ma all'epoca le organizzazioni di categoria e i colleghi appoggiarono Libero nella sua lotta contro il racket oppure fu isolato? Mio marito, risponde Pina Maesano, non ebbe il sostegno necessario e fu persino osteggiato. Non si trattava di una generale sottovalutazione del fenomeno, ma di vera e propria paura. Tanti anni dopo, il nuovo presidente di Confindustria Sicilia, Ivan Lobello, chiese pubblicamente scusa alla nostra famiglia per l'assurdo comportamento assunto in passato dall'Associazione degli Industriali. E in conclusione Pietro Scaglione chiede: cosa direbbe a coloro che non si ribellano al racket? Non siate complici della criminalità organizzata. Pagate le tasse allo Stato, che vi offre servizi sociali e assistenza, piuttosto che versare il pizzo alla mafia, che vi arreca soltanto guai e minaccia. Sono passati 10 anni dalla introduzione del braccialetto elettronico per i carcerati o per quelli che dovrebbero uscire dal carcere. Ce lo ricorda Maurizio Tortorella su Panorama, che scrive: lanciato in pompa magna il 5 aprile 2001 da Enzo Bianco, ministro dell'interno del governo di Giuliano Amato, da allora il più tecnologico degli strumenti carcerari è stato fatto indossare in tutto a una decina di persone agli arresti domiciliari, per una spesa folle che il prossimo 31 dicembre arriverà a circa 110 milioni di euro, quasi 11 milioni per ognuno dei braccialetti usati. È istruttivo ripercorrere la storia ormai decennale di questo spreco assurdo, proprio nel momento in cui le prigioni esplodono, con 67.000 detenuti stipati in celle che potrebbero contenerne 44.000, e mentre il governo ha difficoltà a pagare gli straordinari ai 38.750 agenti di custodia. E lo scandalo è doppio, scrive ancora Tortorella, perché i braccialetti elettronici da noi si sono rivelati esclusivamente un costo inutile, visto che al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria dichiarano che quasi sicuramente oggi non ne funziona più nessuno. Però in molti paesi vengono utilizzati per decine e decine di migliaia di reclusi, alleggerendo i penitenziari e liberando cospicue risorse economiche. E in effetti ancora Panorama ci fa un po' di esempi su dove e come viene utilizzato il braccialetto elettronico. Per esempio negli Stati Uniti è in uso da oltre un decennio e può essere applicato a chi sta agli arresti domiciliari o in attesa di giudizio e dimostri di non essere pericoloso. Lo hanno imposto a Mike Tyson, beh lui pericoloso lo era, ma anche all'ereditiera Paris Hilton. Nel maggio scorso l'ex direttore del Fondo Monetario Internazionale Strauss-Kahn, accusato di violenza sessuale, è uscito di prigione pagando la cauzione e proprio accettando il braccialetto. Passando alla Gran Bretagna, dal gennaio 99 ne fruiscono per gli ultimi due mesi di detenzione i detenuti con condanne inferiori a 4 anni e sono in totale circa 15.000. In Germania il braccialetto si usa dal maggio 2000 e è utilizzato in particolare dai detenuti in libertà condizionata. In Francia dal novembre 2009 il braccialetto è applicabile a chi debba scontare gli ultimi 4 mesi di una pena inferiore a 5 anni e ancora nei Paesi Bassi dal 95 il sistema è applicato ai detenuti con pene inferiori ai 6 mesi e vicini alla scarcerazione. Dunque il braccialetto è usato quasi ovunque, in Italia non funziona e le carceri ormai sono piene di detenuti. Vorrei parlarvi ora di una iniziativa del Sole 24 Ore, i grandi fotografi, li trovate in uscita questa settimana la monografia dedicata a Robert Capa, €9,99. Si tratta di una serie speciale di monografie, immagini d'autore da poter collezionare, leggere o esporre, che sarà dedicata a tutti i più grandi fotografi del secolo. Una bella storia ce la racconta su Vanity Fair di questa settimana Daria Bignardi. È una storia di un ictus, di una morte sfiorata, ma anche di una rinascita grazie alla metà creativa del cervello. La storia riguarda una scienziata, è la dottoressa Jill Bolt Taylor, autrice appunto di un libro, Scoperta del giardino della mente. Scrive Daria Bignardi: la scoperta del giardino della mente di Joel Bolt Taylor appunto è la storia di una ricercatrice neuroscienziata di 37 anni, laureata ad Harvard, alla quale una mattina, mentre sola in casa, esplode un capillare nell'emisfero sinistro del cervello e le provoca un danno cerebrale devastante. Nelle 4 ore successive, con gli occhi curiosi di neuroanatomista, assistetti al crollo completo della capacità della mia mente di elaborare informazioni. Qui la Bignardi cita appunto un passaggio del libro. Alla fine di quella mattinata non riuscivo più a camminare, parlare, leggere, scrivere o ricordare eventi della mia vita. Ma la dottoressa Taylor reagisce a questo evento e inizia un lungo cammino verso la guarigione che dura 8 anni, nel quale riesce evidentemente a sperimentare questo doppio ruolo di medico e di paziente, che le permette di fare una serie di riflessioni e una serie di scelte che sono poi riportate nel libro La scoperta del giardino della mente, che non è solo la storia di una esperienza straordinaria, scrive la Bignardi, ma qualcosa di più. Jill, dopo l'ictus, non è più la stessa di prima, è diventata una persona migliore, perché mentre l'emisfero sinistro del suo cervello era fuori uso, si è divertita un sacco con quello destro, ha scoperto la pace, il senso di comunione con la natura e l'universo, il potere delle emozioni e del distacco da essi, ha deciso di imparare a usarlo anche quando sarebbe guarita. L'emisfero destro è quello della creatività, delle intuizioni, il sinistro quello analitico e irrazionale. Ora che è guarita, la dottoressa Taylor ha ricominciato a occuparsi della ricerca, ma in più canta e crea sculture in vetro colorato, felice di vivere e forte di una nuova pace e forza interiore. E ancora conclude la Vignardi, una dritta secondo me, che ha imparato come si possono disattivare i circuiti dell'ira, della gelosia e della frustrazione per attivare quelli della gioia, della felicità, cambiando le sorti della nostra vita e di conseguenza il mondo attorno a noi. L'ho sempre detto io che il mio emisfero destro la sapeva lunga. Prima di lasciarvi per le informazioni sul traffico, vorrei porvi due quesiti di letteratura che traggo da Misura il tuo sapere, la pubblicazione che dal 30 agosto trovate con Il Sole 24 Ore a 3 ore e 50 in più e che appunto dalla prossima settimana sarà dedicata al mondo dei libri. Ho scelto queste due domande. La prima: di quale opera del Novecento è protagonista il medico Ferdinand Bardamù? E ancora, per chi volesse in qualche modo mettersi alla prova, qual è il titolo della trilogia di Italo Calvino che comprende Il Visconte dimezzato, Il Barone Rampante e Il Cavaliere Inesistente? Magazine 24. Bentrovati da Marco Bellinazzo in questa seconda parte di Magazine 24. Vi devo subito le risposte ai quiz di Misura il tuo sapere, il test di intelligenza che dalla prossima settimana, dal 30 agosto, trovate in edicola a 3,50 euro più il prezzo del quotidiano. E allora le due domande e le due risposte che vi dovevo. La prima era dedicata al protagonista di un noto romanzo del Novecento, cioè al medico Ferdinand Bardamù, ed è un famoso appunto romanzo di Céline, Viaggio a termine della notte, la risposta, mentre l'altra, relativa appunto alla trilogia di Italo Calvino, in cui sono presenti le opere Il Visconte dimezzato, Il Barone Rampante, Il Cavaliere Inesistente, non tutti lo sanno, ma appunto la raccolta nel suo insieme si chiama I nostri antenati. Esistono in Italia molti paesi piccoli e soprattutto al nord in cui si assiste da qualche anno a un vero e proprio baby boom. Ce lo racconta Anna Maria Angelone sul Panorama di questa settimana, che grazie a uno studio condotto per Panorama appunto dal Centro Studio Sintesi ha misurato il trend delle nascite negli ultimi 5 anni e è emerso che oltre 8.000 comuni italiani il tasso di crescita della popolazione è particolarmente sorprendente in molti comuni del nord e il primo in classifica è un paesino della Lombardia in provincia di Pavia che si chiama Rognano. È varia la serie di motivazioni di questo baby boom. In ogni caso, appunto, Anna Maria Angelone ci racconta come a Rognano si è addirittura raddoppiato in appena un lustro il numero di bimbi. E sul podio, al secondo posto, c'è Orta di Atella, alle porte di Caserta, al terzo Veggiano, in provincia di Padova. Uno sguardo più generale rivela che si tratta di comuni piccoli e medi concentrati appunto soprattutto al nord, dato che sembra sancire la fine del mito del prolifico sud. Tra le motivazioni c'è soprattutto l'arrivo in questi paesini di giovani coppie, per lo più legato al cambiamento di lavoro sul territorio. A Rognano il 1 gennaio 2005 si contavano appena 308 abitanti e ora siamo a 623. Abbiamo solo 3 ottantenni e 24 cittadini sopra i 65 anni, elenca l'ex sindaco Silvio Penati. In effetti ci sono stati pochissimi funerali e tantissime nascite. Tutto ha avuto inizio a fine 2004, quando sono stati terminati i lavori di ristrutturazione di alcune cascine, un tempo dormitori delle mondine che arrivavano per la raccolta del riso. Con l'avvento delle macchine i campi sono svuotati e così il paese è rimasto praticamente vuoto, ma nel 2001 è stato deciso il recupero di questi edifici e da allora diverse giovani coppie hanno comprato un appartamento nelle ex cascine, l'hanno fatto per una scelta di vita, abitare in aperta campagna a poca distanza da Milano. Così è arrivato il primo figlio e in un paio d'anni anche il secondo. Thank you. E ancora Chet Baker, questa è Five Brothers, fa parte questo CD della collana I Miti dal Jazz che trovate in edicola con il quotidiano al prezzo di 9,90 euro. Di Baker abbiamo già parlato ieri, molti non sanno per esempio che Baker ha vissuto a partire dal 1959 un periodo in Italia, però questo periodo non fu particolarmente felice perché corrispose a una ripresa dell'uso di droghe da parte del grande musicista jazz, che fu arrestato infatti e rimase in prigione per oltre un anno, e poi nel 62 incise per l'RCA alcuni dischi, registrò anche parecchie colonne sonore cinematografiche per la radio, colonne sonore per la radio e per la TV, e nel 64 fece ritorno negli Stati Uniti. La grandezza di Baker e l'importanza della sua musica per quella che è la storia del jazz e non solo è testimoniata per esempio da Caetano Veloso, che di lui diceva che Chet Baker, soprattutto quando cantava, aveva la capacità di cancellare il tempo. Nel mezzo di una nota lunga ti senti come se il tempo fosse sospeso. Oggi è domenica, molti di voi saranno in viaggio per rientrare in città, le ferie che finiscono possono creare grande disagio, ansia, sono stati scritti saggi e monografie su questo tema, ma in controtendenza c'è un bell'articolo di Stefano Zecchi su Panorama che invece fa l'elogio del rientro. Scrive Zecchi appunto che le ferie sono preziose per rigenerarsi, divertirsi e distrarsi, ma lo è di più la routine, perché in fondo abbiamo bisogno di ritmi fissi e di abitudini consolidate. Certo, scrive Zecchi, quando non ci si ferma a riflettere sul perché si è formata nel tempo un'abitudine e si finisce per considerarla qualcosa di banale e scontato, essa può diventare fastidiosamente noiosa, ma chi la percepisce così non può dare la colpa all'abitudine, ma alla sua modesta intelligenza, che non è capace di riflettere sul suo valore rituale per il significato della vita. Dunque un articolo che invita ad apprezzare la propria routine, la propria quotidianità, ma questo non significa che si debba abbandonare l'idea di ripartire e di viaggiare, e in questo senso è in edicola la nuova edizione dei Viaggi del Sole dedicata proprio a weekend e benessere, terme e spa per rimettersi in forma. Tanti suggerimenti mi hanno colpito, quelli relativi ai promessi sposi e a questa nuova moda di due cuori e una spa, cioè tutta una serie di centri benessere, in particolare in Italia, dedicati agli innamorati, e a tutta una serie ulteriore di situazioni romantiche che si possono vivere. Ci sono spa dedicati al fatidico momento della proposta, quelli per festeggiare l'una di miele e quelli studiati per una fuga romantica, prevalentemente insomma dedicati alla coppia, alla rigenerazione dei sentimenti. E dedichiamo gli ultimi minuti dell'appuntamento di oggi al grande assente. Come sapete, non c'è il campionato di calcio, ma volevo parlarvi di questa bella intervista fatta da Vittorio Zincone a Damiano Tommasi, che è un ex calciatore nonché presidente dell'Associazione dei calciatori, una intervista su 7, dove si parla appunto di Anima Candida. Questo è il soprannome che Carlo Zampa, speaker della Roma, allo Stadio Olimpico usava per presentare Tommasi. Si tratta di un'intervista in cui si parla molto di quella che è l'immagine dei calciatori strapagati e che ora appunto sono in sciopero per il contributo di solidarietà, il contratto collettivo, come gli appassionati di calcio ben sanno. E appunto Tommasi dichiara che vuole lavorare per cambiare l'immagine che dei giocatori hanno gli spettatori e chi segue il calcio. Si pensa che siano soprattutto dei miracolati, risponde Tommasi a una sollecitazione di Zincone. Non si fanno i conti però con il lavoro e il merito. E poi dove erano quelli che consideravano viziati i giocatori di oggi, quando a 12 anni quei giocatori venivano sbattuti a 1000 chilometri dalla loro famiglia con lo 0,05% di possibilità di emergere? E Zincone osserva: avevano però la prospettiva di guadagnare tutti quei soldi. Risponde Tommasi: io rappresento 13.000 giocatori, quelli che diventano ricchi sono una percentuale irrisoria, comunque il fatto di guadagnare molto non dovrebbe prevedere che se sbagli un gol poi vieni insultato per strada mentre passeggi con la famiglia. L'intervista va avanti, poi ci sono tanti spunti relativi anche alla carriera di Tommasi, che dopo un infortunio accettò di tornare a giocare nel calcio professionistico con lo stipendio minimo di 1.500 euro. Si parla tanto di letteratura anche in questa intervista e l'ultimo suggerimento che vi do questa mattina riguarda la collana Racconti d'autore, che oggi potete trovare in edicola a 50 centesimi in più rispetto al prezzo del quotidiano, ed è un appuntamento molto rilevante perché si tratta di racconti di Flannery O'Connor, che è una scrittrice molto famosa, una scrittrice americana, una delle autrici appunto più celebrate del Novecento, e i suoi racconti rivelano una vocazione letteraria assoluta che lei stessa così rappresenta. Tu non scrivi al tuo meglio per amore dell'arte, ma per restituire con gli interessi il tuo talento al Dio invisibile affinché ne disponga come meglio crede. La O'Connor è appunto una religiosa e visionaria ed è legata al profondo sud, dalle zone rurali degli Stati Uniti, e lei sgretola ogni possibile edulcorata visione del mondo per esasperare il dramma e il mistero della verità, aggredisce i suoi personaggi e ribalta l'aspettativa del lettore, narra l'agire del demonio e dello Spirito Santo nelle vicende umane, la desolazione, il furore, la meschinità e la ricerca della salvezza. Il giorno del giudizio e altri racconti, Flannery O'Connor la trovate in edicola con il Sole 24 Ore oggi. Un saluto da Marco Bellinazzo, un ringrazio in regia Mauro De Angeli. La prossima settimana a Magazine 24 ritroverete Mauro Meazza.